e via. Può andare. Buon ascolto a tutti. Ok, buona giornata. Allora, io vi racconto queste cose qua oggi, quello che si vede qua. E come titolo, un vademecum per vivere bene i bisogni naturali dell'uomo, e poi andrò nello specifico erbe, piante e frutti, con suggerimenti pratici, semplici, efficaci. E quello che vi racconto oggi non è tanto cosa che viene da lì, vi viene proprio per esperienza vissuta, direttamente provata, fatta, ripetuta. Io, mia moglie, mia famiglia e poi tante altre persone. Allora, cominciamo. Vediamo da che parte cominciare per spiegare una cosa che per me è molto semplice, ma forse per tante persone non è così. Vi spiego la natura, le leggi naturali, tutto quello che ci può essere. Ciao. Buona giornata. Sì, va avanti. Allora, il trucco per vivere bene è questo qua. Si riesce a leggere fino in fondo o manca un pezzo qui, per via del tavolo? Non c'è alternativa, c'è parecchio là e qui e qua. Si vede? O non si vede? Se no devo spostare il tavolo, fare qualcosa del genere. Non si legge fino in fondo? Se riesce, è quell'apparecchio lassù. Mi può chiamare il signore dentro, fuori? Poi vediamo come si può fare. A casa? Sì, non mi interessa, se ho sentito un sacco di volte queste cose. Può magari, purtroppo è fissa la visualizzazione. Se no sposto il tavolo. Il tavolo possiamo spostare tranquillamente. Facciamo così, questo mettiamo di là. Andiamo assieme fuori dalla scatola. Ah, così insieme, tutto così. Occhio che c'è il libro a metà. Lasciamolo qui. Così troppo. Forse un giorno ci verranno una sede nuova, noi lo speriamo fortemente, perché è tutto veramente ormai inadeguato. Questo mettiamolo qua, questo mettiamolo qui. Allora, io tolgo anche sta cosa qui. Penso che vada meglio adesso. Ok, perché quello che è scritto per il mio punto di vista, perché ognuno ha il suo, è molto importante da capire. Ok, allora, di cosa vi parlo? Come si fa a stare bene nel corpo e nella mente? Allora, questa è una cosa che insegnavo già migliaia di anni fa a chi frequentava le scuole della salute, chi frequentava filosofi, chi frequentava i medici di un tempo, sacerdoti, quello che c'era già, antica Grecia, Mesopotamia, Egitto, tutto il resto che c'era allora nel mondo. Questa è la regola del buon vivere, quindi vivere naturalmente, che è la cosa più semplice, ma sembra per l'uomo moderno sta diventando molto difficile. Andiamo avanti. Ok, noi siamo stessi il nostro primo medico e il miglior psicologo. Quindi dobbiamo decidere dove andare, verso la luce o verso chissà che cosa. Io ho messo qualche detto di tanto in tanto dentro, eh? Si legge bene? Sì. Benissimo. Leggete e fate lavorare la coscienza. Allora, prima di entrare nel dettaglio che riguarda specialmente il libro nuovo, cioè il regno vegetale, le piante, sia come alimento che come medicamento, che per me ormai è la stessa cosa, identica, non cambia nulla. Qualunque pianta io usi, è cibo e medicina allo stesso tempo. Queste sono conoscenze molto antiche, anche queste di migliaia di anni fa, solo che attualmente è andato tutto perso. Oggi ci sono i supermercati e basta. Allora, i bisogni naturali dell'uomo, quali sono? Quelli fondamentali che gli servono per vivere bene. Sono sette. In sette giorni è stato creato anche il mondo, no? Puro caso. La settimana c'ha sette giorni, il numero sette si ripete molte cose nelle cose fondamentali della vita. Allora, il punto uno è quello dove ci fermeremo oggi. Alimentazione naturale, personalizzata e corretto rapporto con le piante per tutti gli usi che ci possono essere. E poi vengono anche gli altri sei che mancano. E tutti hanno la loro importanza. Se uno di questi non viene vissuto bene o capito bene, c'è qualcosa che non funziona nella nostra vita, in un modo o nell'altro. Vediamoli un attimo tutti. Movimento regolare all'aria aperta. Non serve fare sport agonistico, ma bisogna muoversi. Anche andare su e giù per le scale sarebbe già sufficiente, ma muoversi bisogna tutti i giorni. Così sta in movimento il metabolismo e tanti altri fattori, ma non approfondisco questo, sto solo superficiale. Altra cosa, ecco, non va. Via. Okay. Respirazione profonda e ritmica. Sarebbe da respirare, per dirlo in parole semplici, come fanno i neonati, col diaframma, dilatare bene la pancia e i reni, regolarmente, anche a tarda età. Una persona anziana, sono stato un paio d'anni fa per un periodo in alcuni ricoveri a Bolzano a intrattenere le persone, purtroppo respira soltanto qua, così, superficialmente, e quello purtroppo è una catastrofe. Seguire ritmi di vita naturale, ritmi biologici che c'ha il nostro orologio biologico, giorno, notte, tutto quello che c'è. Finché non sono in pensione, però. Bisogna cercare di trovare la via giusta. Insomma, alle volte io mi chiedo, deve essere l'uomo adattarsi alla società o la società deve adattarsi all'uomo, cioè ai suoi ritmi? Sarebbe da vedere. Attualmente è un po' squilibrato tutto quanto. Però ci sono gli ospedali, insomma, ci sono tanti medici. Tutti cercano di fare il loro meglio, no? Però la salute è la nostra eredità spirituale, dovremmo essere sani da quando nasciamo finché moriamo. Poi un ambiente di vita armonico dove c'è armonia, bellezza, chiaramente ha un influsso molto forte sulla nostra psiche e sulla produzione ormonale, quindi il nostro metabolismo. Poi la padronanza di pensieri, emozioni. Questa è una cosa più spirituale, ma è fondamentale. È fondamentale per capire meglio la vita e stare meglio. E poi avere una visione positiva della vita, creando pace e ordine nel proprio contesto di vita. Insomma, imparare a farci pace con se stessi, con il nostro prossimo e con tutta la natura. Ecco, questi sono i sette visioni naturali. Andando avanti mi fermerò soltanto sul punto 1, perché tutto una volta non si può spiegare. Quindi resteremo su quello poi che è quello più terra a terra, quello più pratico. Vediamo alcuni problemini che hanno gli uomini oggi, questo mondo chiamato moderno. Vivono sempre di più nelle metropoli, stanno inquinando tutto il mondo, hanno anche trovato ormai particelle piccolissime di plastica che vanno sotto il decimo di millimetro, ormai in tutte le acque ci sono, si trovano, e quelle entrano nel circolo alimentare e ce le ritroviamo poi tutte nel piatto. Questo è garantito. Si dice che circa, almeno quando ho scritto questo libro qua, quindi sono 2 anni fa, si parlava di circa 60 milioni di tonnellate di plastica che galleggia sul mare, nel mondo. Quella che poi è già in fondo, è già finita sul terreno, nel circolo alimentare, lasciamola perdere. Soltanto quella che si vede ancora. Poi c'è l'altro problema che abbiamo, la legge del profitto, che permette un incremento senza fine di non si sa che cosa, di benessere, non risparmia nessuno. E quindi c'è un piccolo problema che ci abbiamo, non possiamo servire però due padroni, soldi, potere oppure la nostra coscienza. E qui cominciano altri problemi che sicuramente verranno fuori prima o poi. Il benessere vero, quello che almeno intendo io, poi ognuno ha i suoi punti di vista, non viene da materialismo, potere, abilità, perché queste ci portano solo guerre, miserie e povertà, almeno è sempre stato così finora e penso se va avanti così sarà ancora così. Mentre le cose importanti della vita sono gratuite e ci regalano salute e felicità. poi vediamo, andiamo, cominciamo a vedere un po' cosa può essere questa cosa qua. Quindi cominciamo a mettere a posto la nostra vita personale, se possibile, vivere saggiamente, connettersi intelligentemente con la natura e ciò di cui dobbiamo riappropriarci. Andiamo avanti. Questa è una foto che ho fatto a casa, davanti a me si vedeva in lontananza questo arcobaleno. Nel contatto con la natura incontaminata riscopriamo pace e vera spiritualità. E questo lo leggete o ve lo leggo io? È che qua riprendono un po' tutto, quindi la natura ci aiuta a costruire il benessere e a sentire felicità. Tutto ciò avviene sempre, di continuo, non è una cosa astratta questa, è una cosa molto terra-terra, pratica e quotidiana, ed è quasi impercepibile, non lo percepiamo, lo prendiamo tutto per scontato. Quindi per mezzo dell'energia del sole, dell'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, sulla terra dove viviamo, costruiamo le nostre case, crescono le piante che usiamo come cibo o come medicine. Oppure anche per mezzo di persone buone che ci danno una mano quando ce n'è bisogno. Poi vediamo una cosa fondamentale, tutto questo che è stato detto prima si può riassumere in questi quattro elementi. Questa è l'antica filosofia greca di 3-4 mila anni fa, che è stata poi importata dalla Cina, dall'India e tutto il resto, già millenni or sono. Questa frasetta qua sotto mi piace tanto, eh? La vita non è una lotta per l'esistenza, bensì il gioco dell'amore, perciò dobbiamo solo imparare a ricevere e a donare. E questa è una cosa, col mio lavoro di ispettore forestale, stando fuori nella natura, è quello che ho imparato. Non dobbiamo né lottare né combattere, dobbiamo solo imparare a ricevere e a dare avanti, così può fluire l'energia e stanno tutti bene. Questa non è filosofia, questa dovrebbe essere stile di vita applicato tutti i giorni. Allora, uno dei quattro elementi fondamentali sono il fuoco, cioè il sole, il dio sole di un tempo, poi c'è la terra, la madre terra, di cui dobbiamo imparare a farne buon uso e di non abusarne. Poi abbiamo l'aria, quello che leggete, quelle scritte potete leggere tranquillamente voi. L'aria deve essere pura, dobbiamo respirarla come si deve, perché ci dà anche questa energia vitale. E poi l'acqua che purifica, per mezzo dell'acqua pura, che è un ciclo che continua, evapora, sale in alto, si purifica, scende nella terra, entra nel terreno, è un ciclo continuo che ci permette di avere acqua pura, perché tutte le reazioni biochimiche nel nostro corpo avvengono per mezzo dell'acqua. Adesso alcune riflessioni veloci prima di passare alle piante vere e proprie. La salute di anima e corpo è solo la nostra eredità spirituale, direi quasi così. Noi dovremmo essere sempre sani. Se non siamo sani o abbiamo dei problemi di qualunque tipo, vuol dire che sbagliamo qualcosa nella vita. Almeno questa umiltà dovremmo avercela, per capire poi anche il motivo. Quindi la salute dell'anima e del corpo rispecchiano la nostra condotta di vita. Quindi se vogliamo migliorare il nostro stato di benessere, bisogna di conseguenza migliorare il nostro stile di vita. Quindi qualunque problema, difficoltà, sintomo, malattia o quant'altro avviene nella nostra vita, è solo un segnale che ci indica di cambiare la via che stiamo percorrendo. La soluzione è semplicissima: modificare il nostro stile di vita, la nostra visione, il nostro programma che abbiamo qua nel computer cervello, del nostro corpo e del mondo intero. Perché il benessere, salute e poi la bellezza anche esteriore, tutto quanto, vengono sempre da dentro di noi. Da come pensiamo, come ragioniamo, come ci nutriamo e tutto il resto. È tutta una catena continua. Da di fuori non viene niente. Adesso abbiamo, prima di passare direttamente alle piante, che poi spiegherò anche un po', vediamo un pochettino e capire un certo concetto. Felicità è luce, energia vitale. E può essere attivata in diversi modi, basta un po' di buona volontà alla fin fine. E quello che vedete adesso lì, il colore non è ideale, vedo qua nel computer è diverso, quindi si altera un po'. Questo era un bellissimo tramonto in un certo posto dove ero stato, e questo è il sole. Nel passato il sole è sempre stato divino, un dio, diciamo, il dio sole. San Francesco, Echnaton, ci sono queste poesie, questi che parlano appunto del sole, e quella è rispecchia l'energia divina, possiamo vedere così. Poi abbiamo la madre terra su cui viviamo, quindi dobbiamo imparare a trattarla bene e usarla bene, farne buon uso. E poi abbiamo questo fattore qua, questa è una foglia, il verde, c'è la clorofilla, quindi la vita che noi conosciamo oggi dipende proprio dalla clorofilla, questa sostanza che noi per i nostri occhi la vediamo verde, che è molto simile all'emoglobina del nostro sangue, che è rossa. E per mezzo di questa sostanza l'energia del sole entra nella pianta. Cosa vuol dire questo? Noi siamo abituati a vedere quando facciamo una tisana, oppure mangiamo qualunque cosa, noi mangiamo vegetali di solito. La carne è una cosa del tutto secondaria. Noi non mangiamo soltanto carboidrati, vitamine, proteine, minerali, tutto il resto che hanno scoperto, mangiamo però in modo fondamentale energia. Quindi più cibo naturale mangiamo, meno trattato è, più originario è, più energia può assimilare il nostro corpo, cioè vengono ricaricate le nostre batterie, si può dire così, se per capirlo forse un po' meglio, ma nel vero senso della parola. Quindi per millenni la natura è stata la farmacia verde, il cibo degli uomini, e ancora oggi è così, anche se molte conoscenze sono andate perse. Quindi usare con saggezza ciò che la natura ci dona, bisogna capire che le piante sono cibo o medicina. Questo lo diceva già Ippocrate 2400 anni fa, per capirci. Medicina per il corpo ci dà la salute, informazione per l'anima ci dà la felicità, ricostruisce, rigenera, quindi energia vitale e benessere. Quindi bisogna pensare, usando le piante ricostruiamo proprio il nostro corpo, a tutti i livelli, dagli ormoni a tutto quello che possiamo immaginare. Quindi più il cibo è scadente, più il corpo diventerà scadente, più il cibo è ricco di luce, di energia, fotoni, chiamiamoli così se vogliamo parlare un po' più scientificamente, più energia ha anche il nostro corpo. Questo è un po' di poesia, leggete pure, questo è un fiore di mandorlo, questo qua, fuori dove vivo io in primavera, e andiamo avanti. Adesso vediamo un po' queste piante. Quello di prima era un po' una premessa, no? E adesso vediamo le piante come medicamenti e come alimenti. Medicamenti di solito si intende fitoterapia per uso interno e esterno, ci sono tantissime possibilità e molto, molto interessanti anche fra il resto. E poi si usano anche come alimenti, no? Questo cos'è? Il ginepro, comunissimo ginepro che cresce qua sulle montagne e lo si usa come il pepe. Si potrebbe dire il pepe per chi vive in questi climi più freddi dove siamo noi, invece il pepe sarebbe la stessa cosa per chi vive ai tropici. Quindi troppo pepe mangiare per noi non ci fa bene, sarebbe meglio usare un pochettino più di ginepro. Il gin, lo conoscete, il gin è fatto a base di ginepro, no? E il ginepro che serve? Io sto ai due punti principali, perché sennò non finisco più, no? Se a chi interessa queste cose le può leggere lì dentro dopo, nel libro. Ginepro si fanno tisane, tinture, impacchi, cure, ricostituenti, tante possibilità ci sono. Quindi stimola la peristalsi dell'intestino, disinfetta l'intestino, vie urinarie e stimola forte l'attività dei reni. E in più c'è la cura di bacche di ginepro autunnale per rinforzare il sistema immunitario. Questa è una cosa, questo è il vischio, ci sono gli estratti acquosi che forse qualcuno lo sa, li vengono usati per iniezioni per certe forme di tumore come medicina naturale, ma la cosa più comune si usa il vischio, le foglie si usano come forse tra le piante migliori che esistono qua in Europa per riequilibrare la pressione. Quindi specialmente quando è troppo alta riesce a sbassarla, insomma riesce a stabilizzarla. Questa è una delle possibilità. Poi abbiamo la betulla che tutti conoscono, no? Come la sua bella corteccia bianca. Cosa c'è di bello la betulla? Allora, di solito nei libri scrivono edemi, cellulite, un po' la diuresi, ma la cosa principale che purtroppo non scrivono, che sarebbe molto più interessante, stimola il sistema linfatico, lo fa funzionare meglio. Quindi guardate in internet cosa serve il sistema linfatico, una cosa molto interessante, ha a che fare col sistema immunitario e con la disintossicazione del corpo, è molto importante. E la betulla è forse la pianta migliore per questo. Foglie o la linfa in primavera. Questo qua è il pino mugo, quello basso, strisciante, che cresce qua un po' su tutte le montagne, su dai 1500-1700 fino al 2005 circa. C'è il mugoglio, l'olio che ne viene estratto. È una pianta che si può usare per i bronchi, i polmoni come digestivo e come disinfettante dell'intestino e delle vie urinarie. Io ci faccio a casa sempre la tintura perché è molto buona e molto, è come digestivo anche molto potente. C'è un altro effetto interessante che vedo che di solito non viene mai accennato nei libri in generale. Agisce anche un pochettino come la digitale. Mai sentito la digitale? È un bellissimo fiore, molto velenoso, che viene usato per problemi col cuore quando è irregolare. Bassissime dosi, altrimenti chiaramente se muore. E invece il pino mugo, questo qua, c'ha questa caratteristica, agisce un pochettino in questo senso sul cuore senza creare nessun problema. E poi allontana le tarme. Allontana sì, le tarme. Sì, poi viene anche quello. Poi si fanno questi bronchi sui bronchi, impacchi sui bronchi con la bronchite, polmonite, eccetera, eccetera. Ma sono tante le cose. Il mugoglio si mette nelle creme, così via, per le articolazioni, dolori, eccetera, eccetera. Sono tantissime le cose. Quindi, per capirci bene, la madre terra è il migliore consulente di benessere e ci sostiene in ogni occasione. Quindi pian piano vedremo cosa e come. Questo qua è un piccolo alberello che cresce qua da noi un po' dappertutto, in tutto l'Alto Adige, in tutta Italia, insomma, e in Europa. E forse questo è il migliore lassativo che esista al mondo. Sarebbe il rabarbaro, la senna e altri anche lassativi. Questo qui invece è molto interessante. Si usa la corteccia e non le bacche, agisce 24-48 ore e anche nel lungo termine di solito quasi sempre non irrita le mucose intestinali, quindi, e non crea assuefazione. È la rosa canina? No, frangola. La frangola. Queste qui erbe più che altro, la maggior parte le ho descritte anche nel libro, così si evita di scriversi un mucchio di cose, le può leggere tutte dopo lì. Poi cosa abbiamo? A sinistra la verga d'oro, è una delle piante che funziona molto bene per problemi con i reni e le vie urinarie, i fiori. A destra abbiamo biancospino. No, questa è una piccola erbetta alta così, quando comincia a seccare è molto profumata. Si chiama? Qualcuno la conosce? Cresce nei boschi di faggio più che altro. La si può piantare proprio orto e poi si propaga anche. Sperula odorosa, una pianta gustosissima, si può usare per tante cose, ad ogni modo principalmente è un buon digestivo e anche un leggero antidepressivo. A sinistra la primula vera, quella col gambo lungo. Quella lì è un po' tossifuga, adatta per i bambini, leggero calmante e leggero disintossicante. Le foglie giovani, primaverili, si possono anche mangiare. A destra abbiamo la malva, ci sono diverse specie. Gli antichi romani, per capirci, la mangiavano regolarmente come verdura cotta, sia fiori che foglie. Contiene molte mucillagini, quindi protegge le mucose di tutto il corpo un po', sia che sia le mucose degli occhi, oppure pelle infiammata, o le mucose dello stomaco e dell'intestino e della gola, chiaramente. Andiamo avanti. Alcune bacche. Perché le bacche? Perché non ho messo, per esempio, non so, albicocche o pesche o mele? Perché forse le bacche sono i frutti che il nostro corpo riesce a tollerare al meglio degli altri frutti. sulle più naturali? No, non è per questo. C'è un adattamento che va avanti millenni, perché se andiamo indietro 2-3 mila anni non esistevano mele come le abbiamo oggi, non esistevano pesche, non esisteva albicocche, non esisteva il ciliegie come le abbiamo oggi. Sono prodotti seguiti dopo, sono stati evoluti. Questo c'è sempre stato. Allora, il lampone in alto a sinistra, con le foglie si fanno le tisane, con le bacche si mangiano chiaramente, si fa il gelato fatto in casa, per esempio, marmellate, succhi, e si mette anche in grappa come tintura, se si vuole fare una cura, perché ha anche un leggero effetto ricostituente e agisce anche un pochettino per i suoi fitoormoni un po' sugli organi genitali femminili. A destra in alto abbiamo la rosa canina o rosa di macchia. Questa è molto interessante perché è il frutto, diciamo la pianta, che contiene più vitamina C, almeno qui in Europa, ok? Può arrivare a 1250 mg per 100 grammi, quindi è una bomba di vitamina C, 20-30 volte più di un limone, per capirci. È un ottimo antiossidante e stimola la vitalità del nostro organismo, stimola, insomma, andare a spiegarlo meglio, la corteccia surrenale, quindi la nostra vitalità. Si può mangiare così? Si può mangiare così, prima che sia troppo molle, quando è già bella rossa, si spacca, si tira fuori i semi, si mangia. Oppure la cosa ideale, la tisana, si fanno specialmente d'inverno, per evitare l'influenza, cose di questo genere, oppure si mette nell'alcol a 50 gradi. Come tintura madre, si lascia dentro anche dei mesi, è meglio per questo frutto qua. E, no, si potrebbe anche far gargarismo, non è importante, lo si prende di solito come ricostituente o rinforzante del sistema immunitario, e in questa forma come tintura concentrata la si può dare anche ai bambini piccoli, poche gocce, l'adulto ne prenderà 2-3 cucchiaini da tè. Poi abbiamo la fragola ricca di calcio, di ferro, ok? Con le foglie si fa anche qua la tisana, e i frutti si mangiano, chiaramente si mangiano, e è un ottimo antireumatico. C'è anche la cura di fragole, per esempio, per chi non è allergico. Se uno è allergico, basta che quando le mangia, di solito è sufficiente mettere qualche goccia di vino, così si riesce a contrastare questa cosa qua. In basso a destra abbiamo il ribes nero. Ribes nero è uno dei frutti coltivati, bacche coltivate, più interessante, perché è un ottimo antinfiammatorio, ricostituente, rigenerante, ricco di minerali e di vitamine, e si usa appunto, come ho detto prima, ricostituente, anche rinforzante il sistema immunitario, per i bambini piccoli, per gli adulti, per gli anziani, per tutti. Sia come frutto mangiato così oppure come tintura madre messo nell'alcol. Avanti. No, oh, volevo dire, sì. A proposito di fragole. Sì. Ma sarebbe fragole di bosco, certo. Di bosco, anche quelle coltivate, se non c'è altro si prendono quelle. Quelle coltivate sono piene di pesticidi. Lo so, devo cercare. Dove sono trattate di meno, se possibile. L'importante è sapere le proprietà che c'ha la fragola. Sì, no, no, voglio dire che la tisana di solito preferire farlo con le foglie di quelle selvatiche, prima che facciano i frutti che hanno un gusto migliore, e si fa la tisana, con un'unissima tisana. So, quello dei pesticidi è un altro problema successivo, per cui prima ho parlato delle immondizie, no? E tante cose girano nel nostro ambiente di vita. Avete letto questo di Voltaire? No, questa è la realtà, questa è la verità, non è che racconti delle frottole, dice la verità. Il medico è un uomo abile che diverte i suoi pazienti mentre la natura li sta curando, così è. Qui abbiamo il lichen islandico che cresce per terra, su nelle montagne, non quello sugli alberi, è per terra soltanto. Questo in Nord Europa, diciamo Siberia ancora oggi, le popolazioni che vivono lì, originarie, lo mangia come verdura cotta. Cosa si usa? Mucillagini, sostanze antinfiammatorie, sostanze antibiotiche, quindi si usa per problemi bronchi, polmoni, insomma bronchite, polmonite, e anche per infiammazioni nell'intestino. Ok, come tisana, oppure magari come sciroppo. Questo è il timo di montagna che cresce su in alta montagna. e come effetto, come il timo comune si pianta nel proprio orto. È una pianta che è interessante per diversi motivi, blocca lo sviluppo dei batteri, non è proprio antibiotico, è vero se la parola, per ne blocca lo sviluppo, lì non posso più crescere dove c'è il timo, insomma. Quindi farne uso come pianta aromatica, come tisana oppure come tintura, e poi un buon digestivo, disinfettante dell'intestino, e ideale anche per problemi con i bronchi e i polmoni, inalazioni, tisane, eccetera eccetera. Achillea mille foglie, questa sembra sia uno degli ingredienti anche del vermo, perché lo aromatizza, pianta aromatica appunto utilizzata per liquori anche. Le foglioline piccole, quelle morbide ancora, non quelle vecchie, si possono mettere nelle minestre, nei minestroni, perché contiene sostanze interessanti. Di solito tisane e tinture si fanno con i fiori. E cosa serve in breve? Digestione, stimola la digestione, stimola la disintossicazione del corpo, che è molto importante questa cosa qua, specialmente attraverso i reni. Se ci sono crampi e dolori, per esempio all'intestino, oppure gli organi genitali femminili, mestruazioni dolorose, eccetera, è una pianta che vale la pena di usare. Esternamente poi si fanno lavaggi, la pelle infiammata, oppure ferite e così via. Io cenno solo veloce. Questo qua è il lupolo è quello che cresce sulle siepi e così via, quello si fa la birra, e questo è in autunno, quando le piante femminili fanno queste pignette così, no? E in primavera i getti si mangiano come verdura cotta, che è ottima fra il resto, più buona dello spinaccio, e questi frutti si utilizzano come tisane o tinture di solito. L'effetto che ha? Digestivo, leggero antibiotico, aromatizzante, la birra è tutti conosciuta, e poi un effetto calmante, leggero antidepressivo, favorisce il sonno e calma, diciamo, come si può chiamare? Non viene la parola giusta, specialmente per i giovani, calmante sessuale un pochettino, usato con una certa concentrazione. Ecco, queste sono le sue proprietà. Questa è un'altra riflessione: le piante come alimenti naturali e genuini affinano e sensibilizzano il nostro corpo fisico. Questo è l'effetto spirituale anche. Non è soltanto quello puramente chimico, c'è anche questo in gioco, che è molto importante da capire. Poi che ci abbiamo, questo è il silene. Non so chi di voi da bambino ha giocato con i fiori ancora chiusi e farli scoppiare. Ecco, questo si chiama silene, silene inflata, e questi sono i getti, si trovano nei prati non troppo concimati, se no sparisce, ed è un'ottima verdura cotta, forse tra le migliori da mangiare. I getti giovani si spezzano finché sono morbidi, e è importante, come altre verdure selvatiche, che così impariamo a mangiare cose che di solito non mangiamo, quindi per il nostra migliorare la nostra varietà alimentare, che è molto importante. Perché se fino a 100 anni fa c'erano, facciamo un esempio pratico, 100 cose diverse da mangiare e solo 10 ricette, oggi ci sono 100 ricette e solo 10 cose diverse da mangiare. Se si va in un ristorante o nelle case della gente comune, si vedono sempre le stesse cose, e quello è un problema anche grosso, perché manca tante sostanze. E si chiama questa silene inflata, insomma, il nome botanico. Questa qua è un'altra cosa interessante, ho messo questa perché questa è troppo importante. Questa è l'ortica, quella lì che punge, diciamo, è una pianta che ha un effetto antinfiammatorio. I reni? Non proprio i reni, no. È un ottimo disintossicante, reagisce un po' su tutto l'organismo, ha un effetto antinfiammatorio ed è ricchissima di minerali basici, quindi aiuta a riequilibrare gli acidi e le basi del corpo umano. Contiene così tanto, il doppio circa di calcio del, quando è ancora fresca, circa il doppio di calcio del latte, per capirci. Se noi beviamo, mangiamo latte, il nostro corpo acidifica; se noi mangiamo l'ortica o ne facciamo la tisana, il nostro corpo invece tende a diventare più basico. poi è ricco, eh? C'è differenza tra questa che punge e quell'altra? Che... Sì, tutta un'altra pianta. Tutta un'altra pianta. Sarebbe l'ortica bianca, non è un'ortica, è una composita. Questa è un'urticacea. Che punge. Quella che punge. Ok? E di questa qua poi c'è quella maschile e femminile, perché ci sono piante maschili e femminili, ma questo non ha importanza. Fiorisce. Cosa? Fiorisce, non ho mai visto i fiori. Sì, fiorisce così, così è, quando fiorisce. In primavera no. Dopo sì. Si usa anche i fiori? Volendo si possono usare anche quelli, mangiare anche quelli, e specialmente utilizzare i semi. Quando sono maturi si raccolgono per aromatizzare qua e là. È friccionato sul corpo. Una volta l'ho già frizionata sul corpo fresca per i dolori reumatici, i dolori articolari, mal di schiena e così via, appunto perché contiene queste sostanze antinfiammatorie, e poi anche agisce come un cerotto al peperoncino, quindi stimola la circolazione sanguigna, viene sangue in superficie, la parte si riscalda e è quell'effetto lì anche, no? Quindi la si usa come disintossicante per vasificare i liquidi organici, l'acqua del corpo umano, che è molto importante, come remineralizzante, ricostituente per i bambini, adulti e per gli anziani, mangiandolo come tisana, e poi contiene ormoni vegetali, non grandi quantità, però il suo uso costante ha sempre quell'input, che ha quel piccolo effetto, in questo caso sulla prostata. Ok? E un'altra cosa interessante, aiuta a abbassare lo zucchero del sangue. Vi basta per l'ortica? Sta per renderla più attraente? Quindi come tisana... Un momento, sente la persona. Le ortiche sono in primavera, no? Si sì. Raccolgono perché hanno la maggiore. Se io le dovessi raccogliere e conservare, cosa si possono anche raccogliere d'estate anche, eh? E mangiarle fino in autunno, una volta che si taglia, in generale, sì. Come si possono conservare? Seccate. Ah, seccate. Sì, sì. Seccate. Come la camomilla. Sì, sì, seccate, e poi se ho le foglie secche, d'inverno le uso anche come alimento. Le metto nei gnocchi, nei canedali, oppure la stropiccio, e tutto in polvere lo aggiungo dove voglio, senza problemi. Nel freezer? Nel freezer? Non vale la pena. No. Non vale la pena, perché si secca comodamente, i minerali che c'hanno non va perso nulla. E forse diventa più efficace secca, aumenta probabilmente. No. Si concentra le cose un po' di più, perché è secco, quindi perde l'acqua, ma dal lato pratico no. Si utilizzano solo le punte, o perché io quando vado in montagna, per esempio, sì, le cime finché sono morbide, oppure anche le foglie un po' più basse, quando sono un po' più vecchie si lascia perdere, cioè non è un problema quello. Le parti dure si lasciano poi via, le foglie vecchie anche via, cioè insomma appena ma sotto, sì, dipende se la pianta è giovane o vecchia. Se è giovane posso le foglie scendere tanto così. Se io taglio anche e la parte, se è alta così, taglio la metà, e queste le posso usare anche il gambo che è ancora morbido come tisana. Se prende con la mano così, sì, sì, con la mano così. E se, se pizzica, non è velenoso, niente. Anzi, fa bene. Sì, sì. Che poi è piacido. Sì, sì, certo. Ok, avanti. Adesso vediamo altre cosette. A sinistra abbiamo il bietolone verde. Questo me lo coltivo nel campo, se qualcuno si ricorda di me, prossima primavera si fa sentire e mi posso dare. Diventa alto da così a così e fa delle foglie anche grandi così. È forse è stata la prima verdura cotta che è stata usata in Europa migliaia d'anni fa. Ok, già parlo di 5, 6, 7 mila anni fa. E come sostituto dello spinacio. A destra questo è il buon Enrico, cresce in montagna di solito, anche lo si usa anche come sostituto dello spinaccio, le foglie o anche qua i getti terminali. E poi andiamo avanti, prima di parlare di queste due piante interessanti, io scelgo determinate piante qua che ho poi descritto anche nel libro perché sono molto importanti per il lato pratico. Adesso vi dico una cosa, ho accennato lo spinaccio diverse volte adesso, perché vi consiglio di non mangiarlo. se vi leggete un libro che parla di piante velenose, troverete sempre lo spinacio. Continuo salato di casa. Le coste vanno già un po' meglio, le erbette, le coste, ma lo spinacio ha una concentrazione molto elevata di acido salico, come rabarbaro, per dire. Quindi chi ha problemi di reni dovrebbe dimenticarselo completamente. E poi è una pianta che assorbe molti nitrati dal terreno e altri inquinanti ambientali, purtroppo è come un filtro. Quindi lo spinacio è una delle poche verdure da, tra virgolette, dimenticarsi. E questo acido salico, quando si scioglie, diciamo, nello stomaco, i minerali anche si sciolgono dello spinacio e si lega molto spesso e volentieri col calcio, si forma ossalato di calcio, quindi calcoli a cistifere, specialmente ai reni, se uno ha quella tendenza lì. E poi diventa molto pesante da digerire. Anche quello di montagna? Un po' di meno, già meglio. Già meglio. Questo però lo dicono anche i vecchi. Sì. Mia suocera dice sì. Lo spinaccio, lei è contrarissima allo spinaccio. Sì, sì, ma è così. Questo è un dato di fatto. È nominato da Barbaro prima. Sì. Mia suocera dice anche, che però lei non, sì. non sta studiando queste cose, che bisognerebbe raccoglierlo prima di giugno. È vero? Ma cosa parla? Dei gambi? Dei gambi. I gambi è una cosa a parte, la parte terapeutica sono le radici, non i gambi. Ah. I gambi sono in primavera quando sono morbidi, se uno farsi la marmellata o mangiarseli cotti e così via, va bene. Però non è niente di particolare, ha un buon gusto, ci fa le torte anche, sì, sì, però dal punto di vista nutrizionale non è niente di importante. Se uno lo vuole lo può fare, basta che non ne mangi troppo. No? E se no si usa la radice ha due effetti molto interessanti. No. Tre forse, diciamo. Uno, quello in grande, se lo usi in elevata quantità è un forte lassativo, se lo uso in piccole dosi è un ricostituente, è un digestivo, e in dosi appena un pelito oltre che non diventi lassativo, diciamo, è anche aiuta a fare buon sangue, ricostituente, ok, stimola la formazione di globuli rossi e così via. Però bisogna saperlo usare. Ah no, scusate questa roba qua. Allora, spinacio l'avete sentito, le alternative alcune le ho accennate. Andiamo a vedere queste due piante. Questo è il tarassaco, che tutti conoscono. Ah, sì, ottimo. E quella è la cicoria selvatica. Qui, se fate caso, prossima estate, giugno, luglio, agosto, la vedete fiorire ai margini delle strade. Una volta avete nell'occhio, la vedete dappertutto. La cicoria si fa con le radici, si fa il tostare, si fa il caffè di cicoria. E queste due piante nell'effetto sono un po' simili. Nel senso che sono... Sì, e la cicoria veniva chiamata dagli antichi greci l'amica del fegato. Ma tutte e due agiscono in quella direzione. Quindi l'effetto principale cos'è? Disintossicante, stimola l'attività del fegato, lo ripulisce fuori, insomma, aumenta la diuresi, quindi si fa più urina, favorisce la digestione per le sostanze amare che contengono, e poi il tarassaco un po' di meno, ma il cicoria un po' di più, aiuta a abbassare lo zucchero nel sangue. Ok? Per capirci quello che è. E chiaramente questi usati come tisana, e specialmente come verdure, sono più ricche di vitamine e minerali dello spinacio. 50-100% in più di queste sostanze. E butta fuori la favola del ferro dello spinacio. Quello è un problema. Bisogna sapere che l'acido ossalico lega il ferro una volta che si scioglie nello stomaco, e quindi va perso, insomma. Sì. Non va. Andiamo avanti. Questo lo conoscono tutti? Sì. Radicchio rosso. Poi c'è il radicchio verde, sono diverse specie di radicchi. Sarebbe bene saperlo. Prima avete visto la cicoria selvatica, ok? Dalla cicoria selvatica derivano tutte le forme di radicchio che abbiamo oggi, verde, rosso che sia. Quindi se utilizziamo questo come verdura, sia cotta che cruda, come antipasto, il crudo chiaramente, facciamo un'opera buona al nostro corpo. Quindi ancora un po' quell'amaronio, quindi non è stata super modificata dall'uomo, ha ancora un effetto terapeutico sul nostro organismo. A parte le sostanze nutritive, disintossica, stimola la digestione, fegato, reni e zucchero nel sangue. Quindi non mangiate mai, fate quel che volete, non mi riguarda, insomma. Se usate un'insalata, usate radicchi vari che esistono sul mercato, verdi o rossi, ma non usate la lattuga brasiliana. Perché assorbono troppi ossalati, nitrati, non hanno ossalati, nitrati dal terreno e altre sostanze tossiche, e specialmente quelli coltivati in serra oppure concimati molto sono un peso per l'organismo, non vale la pena. Sono cose che si imparano, queste non le imparate da libri, le imparate vivendo, sperimentando, cercando, provando, facendo, che poi è per me quello che conta alla fine. È chiaro questo? Cibo naturale e acqua pura sono informazioni ad alto livello, quanto più naturalmente ci nutriamo, tanto più siamo pieni di vita, cioè quell'energia vitale che ho fatto vedere all'inizio, sole, madre terra, fotosintesi, l'energia entra nella pianta. E questo è molto importante da capire. Siccome oggi la maggior parte della gente mangia fast food, quindi cibo quasi spazzatura, sarebbe bene saperlo. Se le persone prendessero coscienza di questo, si svuoterebbero molto gli ospedali. Poi qui ci abbiamo, io l'ho messo apposta, il limone. Il limone è una pianta molto interessante, non solo vitamina C, queste cose. Alcalinizzante, sì. Poi ottimo digestivo, con la buccia pure, i fiori, tisane, eccetera. Qui ci abbiamo l'aglio. Vermifugo, arteriosclerosi, pressione sanguigna, eccetera, e c'è qui dentro una ricetta dove li combino tutti e due. Per fare cosa? Per ripulire vene, arterie e capillari dai depositi che ci sono dentro, e quindi scaricare il cuore, aiutare la pressione a stabilizzarsi e favorire la digestione, disinfettare l'intestino, eccetera. È una bomba. Usandole tutti e due si ottiene questo effetto. Una ricetta per una medicinale o per un cibo? Non direi né medicinale né cibo, cioè io non faccio più di distinzione tra cibo e medicine, bisogna capire come funziona la natura, se no ci si fissa su una cosa o sull'altra, è un tutt'uno che si interseca, in questo caso è un cibo medicina o una medicina cibo, e la ricetta è molto semplice da fare, la consiglio a tutti ogni tanto. Posso chiedere, ma si usano anche le foglie? No, di solito no. I fiori si potrebbero usare, volendo, o la buccia. Per questa ricetta che dico io si usa il limone intero, chiaramente, non solo una parte, tutto quanto, semi compresi. E ottima tintura, per esempio, la buccia, la parte gialla, poco meno bianco possibile, messo nell'alcol a 60 gradi, ha un ottimo profumo. E un ottimo digestivo. E le foglie per fare il pesce al forno? Quello è un altro paio di mani, sia di arancio che di limone si possono usare, chiaramente. Ok? Qualcosa? Poi abbiamo questo qua, l'olivo. Allora, l'olio di oliva è forse quello migliore che esiste, forse al mondo? Potrebbe essere? In Italia. Anche in Europa, forse direi... in tutte le zone dove cresce l'olio migliore, per due motivi. Uno, perché è l'unico olio che viene ricavato da un frutto e non da un seme oleoso, cioè viene schiacciato tutto il frutto, quindi c'è anche dentro clorofilla e altre sostanze che altrimenti non ci sono. E poi la seconda cosa, che bisogna capirla nel modo giusto, sarebbe che contiene acidi grassi saturi, poliinsaturi, saturi, insaturi, polinsaturi, tutto quello che oggi è moderno parlare, no? Acidi, grassi saturi, monoinsaturi, insaturi, tutto quello che c'è sul mercato, no? E questo li contiene in modo un po' tutti, ma in percentuali che sono ideali per il nostro organismo. Ok? Perché a noi serve sia questi che quelli. E con lo stile di vita moderno di solito ci sono troppi grassi saturi alle volte bisogna aggiungere quelli insaturi dall'olio, che ne so io, ricavati dall'olio, l'olio di nacioli, per dire, oppure l'olio di girasole, oppure l'olio di mais, oppure cosa c'è ancora? Da quello che c'è in giro, l'olio di lino, eccetera. Quante cucchiaie al giorno mi consiglia? Zero. No, è da capire il motivo. C'è un motivo dietro. Ma non è cibo questo, questa è sempre un'aggiunta. Sì, d'accordo, ma. Ci arrivo, mi date un attimo di tempo. Grazie. No, dimentico quello che dicevo prima. Però questi oli diversi si usano di solito come una cura per riequilibrare quello che manca. Poi nel tempo non servono più. Bisogna ritornare alle cose come erano originariamente. Serve sia questo che quello. Ok? Quindi se continuo a prendere solo acidi, grassi insaturi, alla fin fine il mio corpo gli manca gli altri. È un equilibrio che bisogna trovare. Con l'olio di olivo lo abbiamo. Quindi l'olio di oliva non è un alimento in sé, è un'aggiunta alimentare. Ok? Perché io nell'alimentazione naturale in sé ricevo già abbastanza grassi, sia dalle verdure che dai cereali, e sarebbero per il mio corpo sufficienti. Chiaramente posso aggiungere dell'olio se voglio, perché ormai è diventato di moda da tanto tempo. L'importante è non esagerare nelle quantità. Bisogna vedere come funziona il fegato, si gioca tutto lì. Se il fegato è indebolito, non funziona bene, i grassi sarebbe meglio per un periodo evitarli completamente, anche se un olio è il migliore del migliore, è lo stesso, perché se non lavora bene il fegato non riesce a elaborare bene i grassi, quindi bisogna lasciarlo un po' tranquillo. Ecco, questi sono i trucchi del mestiere, sarebbe da capire bene. Poi ci sono le foglie, si usano anche come tisana principalmente come diuretico, stimola la diuresi, insomma il lavoro dei reni, aiuta leggermente a disintossicare, solo leggermente, e aiuta un po' ad abbassare la pressione del sangue. C'è anche quello. Andiamo avanti. Adesso, per capire un po' cosa significa medicamento alimento, vediamo anche questa cosa qua. Questi sono i fagiolini, quel tipo giallo, c'è poi verdi, viola, ci sono tanti tipi, quelli si mangia freschi d'estate, no? E a sinistra sono le bucce di fagioli quando sono maturi. Allora, i fagiolini si mangiano, quindi quando ci sono la stagione si cuociono, quindi non sono più velenosi, si mangia tranquillamente e hanno, vale la pena di mangiarli, sono sani. Come non sono più velenosi? Perché il fagiolo è velenoso per noi, crudo, bisogna sempre cuocerlo, no? Poi ci sono le bucce del fagiolo, dei diversi tipi di fagioli, questi si usano per fare la tisana. Qual è il motivo principale? Porta molte fibre, una cosa, ma la cosa più interessante, aiuta a abbassare lo zucchero nel sangue. Quindi se mangiamo anche i fagiolini d'estate, la buccia non ha ricevuto quello stadio di maturità, però ha sempre un influsso sul pancreas. Così vi faccio riflettere un po'. Questa qui cos'è? Chi me lo dice? La paglia dell'avena. La paglia dell'avena si usa da tanto tempo, si può mettere nell'acqua bollita, nell'acqua del bagno per la pelle e così via, ma la cosa principale si fa la tisana. Tisana disintossicante, agisce specialmente attraverso i reni, aiuta a eliminare acidi urici, cloruri, eccetera. La paglia dell'avena. Poi abbiamo cipolla, impatti di cipolla sui reni, poi la tintura di cipolla per problemi col cervello. Sì, poi abbiamo, cioè esterna, sì, lavaggi anche della pelle, solo che puzza, però chi perde i capelli a circolazione sanguigna, no, dicevo il cervello, e poi il cappelluto, no, come tintura, sì, serve per il cervello, proprio per problemi col cervello, perché dopo questa tintura entra dentro. No, si beve? Si beve. In questo caso si beve, il resto con il succo fresco di cipolla, massaggiare il cuore cappelluto. Non è di moda perché puzza, però l'effetto è ottimo. Tutte cose che ho scritto, per chi interessa. Ci parla del porro? Poi il porro si usa esternamente per impacchi sulle articolazioni doloranti, dolori reumatici, eccetera, esternamente, internamente, viene chiamata, tanto per capirci, la scopa dell'intestino. Ma questa è una cosa vecchia di centinaia d'anni già. Quindi si mangia come verdura. In basso abbiamo una delle piante aromatiche più interessanti, il prezzemolo. Cosa c'è di buono il prezzemolo? Vitamina C. Sì. Vitamina E. Anche, ma non proprio esasperato però. Il problema non è avere tanto in una volta sola. Ogni giorno ricevere un po' di tutto quello che mi serve. Questa è l'arte, no? Poi in eccesso. Sì, se manca vitamina E, per esempio, se manca veramente, per un periodo, qualche settimana, prenderò anche quella che fanno chimicamente, mi aiuta. Poi devo lasciare perdere, altrimenti mi crea problemi. In eccesso è abortivo. Quindi quello che ci dà naturalmente non c'è mai problema. Ma quello che è più interessante è il contenuto di ferro e di calcio. C'è 100 grammi di ferro, ci sono circa 20 mg di ferro, 100 grammi di erba. Quindi lo si usa, si usa come erba aromatica, favorisce la digestione, poi stimola la diuresi, disinfetta le vie urinarie e poi bisogna sapere quali parti della pianta utilizzare, è un aiuto anche per la prostata quando è fiammata, no? Ok, c'è anche quello. Si diceva sempre i gambi sono velenosi, non è vero? No. Appunto. Quando quello che si parla come abortivo lo usavano nel Medioevo, ma non usavano le foglie perché dove prendono grandi quantità. No, nel passato faceva tisane con le radici come forte diuretico e disinfettante urinario. Le radici si possono mangiare anche oggi. Usavano i semi. I semi sono molto potenti in questo senso. Quando fiorisce. E i semi in questa forma si usa anche per infiammazioni della prostata. Praticamente per abortire usavano grandi quantità di semi, faceva un decotto e questo, quell'effetto qual era? Stimolava l'attività della muscolatura liscia, come si chiama l'organo giù, il coso? L'utero è un muscolo in sé. Quindi prendendo tanto in una volta sola, la muscolatura cominciava a muoversi e poteva abortire. Questo era l'arte, però ce ne vuole grandi quantità. Se una persona aspetta un bambino e mangia solo un po' di foglie ogni tanto, non succede chiaramente nulla. Ecco. Per tutte le cose ci vuole la sua misura. Avanti. Adesso passiamo a un'altra parte, a altre medicine naturali, queste qui, no? Se ci sono domande, specialmente per quello che è scritto qua, dopo il 1880 gli uomini hanno cominciato pian piano a modificare il cibo, no? E da lì sono venuti fuori i problemi che ci abbiamo oggi. Ok? E quello che l'immagine lì, anche la FAO, chi parla la FAO su base mondiale, dico appunto gli strati esterni del seme contengono la maggior parte delle sostanze vitali e nutritive, parti esterne più il germe. Quindi verso fine 1880 con l'industrializzazione è successa una cosa che forse era meglio che non succedesse: raffinare i cereali, quindi toglierli quei 4-5 strati esterni che sono la parte più nutriente, il germe. E chiaramente vanno perse anche tutte le fibre, che sarebbero molto importanti. Questo è successo, quindi fino agli anni 20 e 30 c'era ancora sia questo che quello, dopo la seconda guerra mondiale c'è solo la farina bianca. Certe specie antiche cereali sono andate perse, che è una catastrofe questa, perché era sostanze un po' diverse, diciamo, e oggi si dice che oltre il 50% o il 55% delle persone oltre 50 anni hanno già diverticoli o infiammazioni intestinali. Questa è una cosa ormai standard che c'è. Il motivo è da ricercare in questo, quello che è successo qua. Sì, attraverso la raffinazione e la modificazione, anni 40 era fatto la prima volta gli americani con onde ionizzanti, radioattività, sono riusciti a il frumento a farlo più piccolo e più produttivo, però si è modificata anche la struttura delle proteine del seme e poi i cereali sono stati sempre più incrociati, diciamo modificati. Attualmente la il glutine contenuto è aumentato fino al 35% di più, che quindi comincia a creare problemi alla nostra mucosa intestinale, sì. E poi non è più il glutine delle specie originarie, ha un'altra struttura molecolare. Quindi i problemi qui dentro sono programmati, arrivano dopo una certa età, se non si cambia stile di vita. Adesso andando avanti, e poi c'è anche questo a considerare, no? Uno non può volersi bene, pensare bene, amare bene, riposare bene ed essere felice se non si è nutrito bene, sia a livello alimentare, sia di acqua che beve o cibo appunto che si mangia, ma anche a livello mentale, come ragione, come pensa, per le cose che vi ho fatto vedere all'inizio, no? E questa è una realtà, un dato di fatto. Ecco, queste immagini vedete, no? Ognuno si può ritrovare la propria forma. E poi sì, noi siamo ciò che pensiamo e diventiamo ciò che mangiamo. È così. Visto? Avanti. Quindi bisogna farsi alcune domande. Allora, come fare a mangiare in modo sano e naturale? Come può essere? Come facciamo? Cosa bisogna fare? Siamo ancora noi che decidiamo, oppure decidono gli altri per noi? Avanti. Questo devo leggerlo qua in basso. Allora, non avete mai pensato che un minestrone di verdure con aromi e un cereale ha tutti gli effetti un decotto fitoterapico curativo? Questo sicuramente non l'avete mai pensato. Però se andate a analizzare quello che c'è dentro, vi renderete conto che è così. Adesso avete visto alcune piante che ho spiegato prima, adesso vi spiego questi cereali, quelli principali. Cominciamo da quello in alto a sinistra, sarebbe l'orzo. Per esempio, gli alimenti base degli antichi legionari romani, dei gladiatori romani, io parlo di persone che dovevano cercare di sopravvivere più a lungo possibile, che dovevano fare degli sforzi molto forti, ok, specialmente erano persone giovani, no? Di cosa si nutrivano? Orzo, miglio, farro. Orzo, miglio e farro. Carne non la vediamo quasi mai, tanto per capirci. E hanno fatto vedere una trasmissione interessante qualche anno fa in Germania, c'era un documentario, hanno provato a rifare l'alimentazione dei gladiatori romani, hanno provato a fare gli esercizi che facevano allora, che erano esercizi, ci facevano culo così per gli sforzi che dovevano fare, e mangiavano solo questo, quelle pappe di orzo, pappe di farro, di miglio, qualche legume, ceci di solito, e altri dettagli, delle verdure, carne non ce n'era, e diventare sempre più forti, più robusti, la muscolatura cresceva, aumentava addirittura anche del peso, nonostante che facessero degli sforzi, consumassero 5-6 mila calorie al giorno. Queste cose sarebbero da capire nel modo giusto. Dal punto di vista medicinale poi c'è l'orzo una particolarità molto interessante, l'acqua di orzo, Braille, come si chiama quello inglese? L'acqua di orzo la usano gli inglesi ancora oggi. L'orzo è verde. Barley water, l'acqua d'orzo, sì, la uso come bevanda, rinfresca l'intestino, la si usa anche quando i bambini piccoli o anche gli adulti hanno febbre, si beve quella lì, no? Ad ogni modo ha un effetto particolare, se facciamo uso regolare di orzo, non i polmoni, principalmente ha a che fare con la cartilagine delle articolazioni, aiuta. Il corpo può prendere quelle sue sostanze, portarsele lì, riesce più facilmente a autorigenerare le sue cartilagini. No, è troppo poco e poi è tostato già, che è tutto un altro paio di maniche. A destra in alto abbiamo l'avena, la paglia dell'avena l'avete vista prima, ok, poi cos'è? L'avena la danno i cavalli per due motivi. Dà energia, resistenza, energia, sì, calore, e poi fa un carattere più tranquillo, più rilassato, più allegro, più diciamo così. Infatti contiene tantissimo zinco l'avena come seme, no? Ci si fa con i semi di avena, quelli non ancora completamente maturi, si fa la tisana, come si usa come antidepressivo, è una possibilità. c'è la cura di avena quando uno è debilitato, proprio è terra terra, quindi per rinforzare l'organismo come ricostituente, come calmante nervoso, e poi per proteggere le mucose dello stomaco e dell'intestino. Contiene circa il 9% di grassi, tanto che si parlava di grassi, sì, sì. E quindi sono tanti dentro. Però è un cereale invernale non estivo. Adesso sapete qualcosa di più? Ah no, scusate, c'è qualcosa ancora? Sì, quello in basso a sinistra, con quello ancora oggi nella farmacopea tedesca è come pianta medicinale. Quando non c'era ancora la rutta, poi non so, l'ipocastano, la vite rossa, eccetera, si usava quello come tisana per proteggere i vasi sanguigni, mantenerli elastici e resistenti. I vasi sanguigni, tutti, vene, arterie, capillari, E il grano saraceno. Ah, sì, sì. Il grano saraceno. Anche d'inverno, da prendere in inverno. No, anche d'estate, non ha problemi. Quindi si fa la polenta, si fanno i gnocchetti, si fanno minestre, zuppe, quel che si vuole. Risotto anche quando è intero, anche eccetera. E anticancerogeno. E pretendere troppo. Quello che può avvalere questo discorso, se io mangio grano saraceno, chiaramente il corpo, quelle sostanze che estrae, può portarle appunto nelle pareti dei vasi sanguigni per rigenerare le cellule dei vasi sanguigni, e questo è interessante da sapere. Sono anche questi qua raffinati in commercio? No, questo non è stato mai raffinato, quindi è una cosa che c'è poco, no? È normale, diciamo, se vai a comprare il grano il seme intero c'è sempre il germe lì. Se poi viene decorticato c'è quella buccia nera esterna, quella bisogna toglierla, quando si macina si può lasciarla dentro, almeno così faccio a casa, non c'è problema. In alto a sinistra la via cos'è? Il mais. C'è la barba del mais, quella che viene fuori di quei peli che escono fuori dove c'è la pannocchia, quelli si usano come ottimo, come si dice, per togliere l'acqua, i liquidi che si depositano nell'organismo. Drenaggio? Non dei reni, però per togliere i depositi di acqua nel corpo, quando le gambe gonfie, braccia gonfie, eccetera. Non diuretico in un certo modo, insomma, dai, riesce a succhiarla via, portarla via. Ecco, questo è molto interessante. Poi il mais, se mangiamo mais come alimento, non è interessante dal punto di vista nutrizionale perché non è completo. I sudamericani, insomma, le popolazioni aztechi, mai eccetera, che lo mangiavano regolarmente, c'erano tante altre specie, chiaramente. Aggiungeva il beriberi, veniva perché gli europei non lo sapevano, mangiavano sempre mais tutti i giorni. E loro aggiungevano il limone? Sì. Allora, le popolazioni americane che lo mangiavano avevano imparato già da millenni a mettere nel mais, come lo lavoravano loro, metterci sassi calcarei polverizzati o la cenere di determinate piante, e così diventava un alimento completo, non c'era mancanza. Ecco, tutti gli aminoacidi poi c'erano dentro. Ok, questo qua è un altro a destra. Ah no, ho detto un effetto dell'uso del mais, è un effetto delicato, però l'importante è sapere le cose sono nel lungo termine, no? No. Ma sono queste cose secondarie, non sono importanti. Cioè, so che quando c'era la tegna, no? Sì. Mangiare mais e cavoli. Cioè, uno che aveva la tegna, sì, sì. Dicevano di mangiare mais. Può darsi, può darsi che avesse quell'effetto. Lo dava anche il polli, vabbè. Anche. Ad ogni modo ha un effetto, quello più interessante, è una cosa delicata, però c'è, è un leggero calmante della tiroide. Ok? A destra abbiamo il miglio, sono tante specie. Il mais è calmante della tiroide, sì. E l'avena è il contrario. È il contrario, è un stimolante, sì, sì. Riscaldante. Sì, sì. Ok? E poi c'è il miglio, sì, il miglio è interessante per due cose, ricchissimo di silicio, calcio, ferro, digeribilissimo, base alimentare ancora oggi degli africani. E poi se mangiamo miglio, oltre a quello che vi ho detto adesso, diventiamo intelligenti? No, oltre ad avere pelle più bella, le unghie più forti, i capelli crescono meglio, quelle sono le cose standard che si raccontano. Il corpo umano, le sostanze che ne ricava, riesce a inserirle nel tessuto renale e polmonare, quindi avremo reni più resistenti e polmoni più resistenti, meglio fatti, diciamo, perché gli alimenti ricostruiscono il nostro corpo, no? Poi abbiamo in basso a sinistra il riso. Il riso cos'ha di interessante? Aiuta a pulire un po' le vene e le arterie, aiuta a abbassare la pressione nel sangue. Queste sono le due cose dal punto di vista medicinale che possono essere interessanti. Poi bisogna saperlo combinare, eccetera. Poi abbiamo qua la base alimentare degli antichi romani, e greci e egiziani anche, il farro, il vero farro, non lo spelta, il vero farro o farro di cocco. E questo qui, da questo qua, per esempio, il farro di cocco, intendo quello giusto, derivano poi tutte le forme di grano duro che esistono oggi. Anche il camu, che oggi è di moda, deriva da questo. Questo è quello originario, che c'era 10-15 mila anni fa. Sì, ma adesso il commercio non c'è più il farro originario. Sì, bisogna informarsi. Il camu, queste cose. Il camu è un grano duro. Sì, ma è tutto artefatto, è meglio non prendere. Perché no, il grano duro è il grano duro, ci sono diverse specie, il kamut è una di quelle. Il kamut, che aveva un altro nome, adesso non so più quale sia, lo coltivavamo fino alla fine della seconda guerra mondiale anche in Sicilia. Il kamut, col nome suo che c'ha in quelle zone lì, lo coltiva ancora oggi in Iraq, Iran, Afghanistan, è normale da sempre. Però deriva, il kamut deriva, come gli altri grani duri, da questo qua, dal vero farro. Ok? E se ci nutriamo con questo alimento, abbiamo anche qua glutine, però in quantità minore dei cereali moderni, e un'altra formulazione chimica che è molto più tollerata dal nostro organismo. Non serve concimarlo, sembra che non assorba neppure la radioattività, anche quello sarebbe positivo, e se io mi nutro di questo non mi manca niente al mio organismo. È un ottimo ricostituente, va bene d'estate e d'inverno, che l'avena è meglio non usarla d'estate, solo d'inverno. E questo qui, anche quando uno ha brutte malattie, quelle più schifose che esistono oggi, diciamo, è forse l'unico che gli dà una mano al nostro organismo a autorigenerarsi. Ok? Bene, andiamo avanti. Il riso deve essere integrale. Per forza, tutto. Se io tolgo, se io faccio per esempio una tisana di ortica, che ne so io, di un'altra erba, no? Metto nell'acqua bollente, fuori esco pian piano le sostanze, poi alla fine butto via la tisana e mangio l'erba rimasta. Ecco, se io raffino un seme, faccio così. Quindi la maggior parte delle sostanze non ce le ho più, mancano. Quindi se io mangio, non so, adesso non so la misura giusta, 100 grammi per dire, no, 50 grammi, l'avevo scritto qui dentro, non mi ricordo a memoria, mi sembra 50 grammi di miglio, io ho già abbastanza ferro per tutto il mio organismo, calcio, magnesio, cioè non è un problema nutrirsi bene. Ecco, alcune cosette si possono fare, canerelli con l'ortica, quelli sono crauti fatti in casa. Qua c'è per esempio gnocchi con farina integrale, ortica c'è dentro, un sughetto fatto con carote e poco pomodoro, quella polenta di grano saraceno, e qua per esempio pasta con verdure varie, pasta integrale, chiaramente con per esempio qua aromatizzata col timo di montagna, per dire. Le possibilità sono infinite. Ecco, questo che ho detto prima lo ripeto anche qua. Adesso forse cominciate a capire cosa significa questa cosa qua. È così semplice mantenere la salute, è così facile perderla, però è anche facile recuperarla, però chiaramente devo fare certe cose, altrimenti non viene. Tutto chiaro? Questo della... questo è un dato di fatto. Ecco, questo è il mio negozio. No, non è il mio negozio. Questo è il supermercato, come piacerebbe a me, no? Ok? Gli manca solo i sacchi dei cereali, poi avrei tutto. Mi prendo, questo è il peperoncino. Ah, viene dopo il peperoncino, andiamo dopo. Ecco, questo l'ha detto Gandhi, per cui l'ho messo dentro apposta. La realtà è così. Adesso una cosetta, allora in Italia sembra che ci sia più di 4 milioni di diabetici. Quando è nata la nostra seconda figlia, abbiamo avuto la fortuna di fare una bella esperienza e ci è nata per strada, andando in macchina, è nata lì. Viaggiando, andando, io guidavo, la moglie era lì, è nata. Più tardi siamo andati nell'ospedale a controllare, diciamo, ci sono incavolati perché non siete venuti prima, perché ha deciso di venire prima. Era piccola. Sì, se mi interessa la storia l'ho messa qui dentro perché è molto interessante, molto interessante. Ad ogni modo, il giorno dopo, prima di andare a casa, andata a prendere la bambina dove, nel locale dove c'erano anche gli altri, tutti questi bambini, un'infermiera gli ha detto: guarda, siete contenti se vostra figlia è nata sana? Vedete, in quell'angolo giù c'erano 5-6 lettini, hanno tutti il diabete appena nati. Allora, noi siamo responsabili della nostra vita, ma anche di quella di quelli che verranno dopo. Perché io passo ai miei figli geneticamente quello che io ho costruito del mio corpo. Se ho poco, gli posso dar poco, se ho tanto, posso dargli tanto. E per capire il trucco dello zucchero, cioè di questa malattia catastrofica che c'è sempre diventata di moda, basta capire queste tre curve qua, ok? È semplicissimo. Allora, se io mangio moltissima frutta, perché sono fissato, per dire, o tanti dolciumi, zucchero, eccetera, la curva è quella lì. A sinistra vedete i milligrammi di glucosio, sale molto in fretta e poi scende molto in fretta. Questo su e giù continuo fa sì che prima o poi il pancreas non ce la fa più. Ok? La mucosa intestinale degenera, le cellule non vogliono più assorbire l'insulina, eccetera, eccetera. Quindi c'ho il problema dopo. È solo questione di tempo. Prima che si capisce, meglio è. La seconda curva, quella mediana, diciamo, è fatta se io mangio alimenti raffinati, quindi farina bianca. Scende già abbastanza, però c'è sempre quel via vai su e giù. Se io invece mi nutro come sarebbe previsto naturalmente, come ha previsto il nostro creatore, insomma, che non vuol dire rinunciare a qualcosa, perché ci sono dei piatti che sono meravigliosi, ottimi da mangiare, da hotel a 7 stelle, non a 5 stelle, la curva è ancora più bassa, quella linea verde, quindi lì il pancreas non c'ha problemi per tutta la vita. Ecco, qui c'è il trucco, è tutto lì, non serve scrivere libri o fare corsi particolari, basta capire questa cosa qua e metterla in pratica. Ma anche la frutta non va bene, quando è troppa è troppa. La frutta è sana, però bisogna vedere sempre la quantità, il problema è solo la quantità, solo questo. Ecco, gli errori più comuni che facciamo sono questi qua. Si legge? Allora, noi mangiamo troppo pulento, oppure mangiamo troppo, o troppo spesso, o troppo in fretta, tanti spuntini in mezzo, mastichiamo poco, mangiamo ciò che non serve al corpo, o troppo tardi la sera, o crudo la sera, o troppo salato, o troppo dolce, o in modo distratto. Sono tutti fattori che influiscono sulla nostra digestione, sulla nostra assimilazione. E non ci si scappa. Zaccate. Ok. Ah, che bella questa. Sì, ma è andato di fatto, questo l'hanno trovato sul serio. Un terzo dei nostri alimenti serve a nutrirci, gli altri due terzi fanno vivere i nostri medici. Questo come 4.000 anni fa, come oggi, il problema è sempre quello. Adesso una cosettina, una riflessione. Queste sono due erbe aromatiche, ce ne sono tante, aromi vari, ce ne sono a dozzine e dozzine. A sinistra vedete la vera Santoreggia, che è annuale, e questo è il timo comune che si mette nel giardino. Non parlo delle proprietà di queste piante, se no non finisco più. Dico soltanto gli aromi, dobbiamo imparare a usarli. Gli aromi sono tutti anche piante medicinali allo stesso tempo. Lo scopo degli aromi qual è? Rendere quello che mangiamo più gustoso. Questo l'ha previsto il nostro creatore, diciamo, nel senso che è più gustoso, ci piace di più, ma l'effetto di questi aromi qual è? Stimola la digestione, favorisce la produzione di enzimi digestivi, succhi gastrici e intestinali, quindi digeriamo meglio, assimiliamo meglio e alla fine di questo circolo i reni lavorano meglio, il fegato è meno sovraccaricato e rimangono meno scarti e rifiuti. Quindi usarli vale la pena. Non è perché piacciono, è previsto che ci piacciono, no? Quindi imparare a usarli. A sinistra il peperoncino, non i peperoni, eh? Peperoni bisogna starci attenti, se è tutta la stessa famiglia. Quello che gli ha peperoni e peperoncini, ci sono due gruppi, insomma, e ci sono circa nel mondo oltre 200 specie, occhio e croce. E quello che è interessante è il peperoncino. Sono più piccoli, solanacei, no? Sì, sì, sono solanacee. Però il peperoncino non è così dannoso come il peperoncino. Sì, perché non ne puoi mangiare tanto, ecco, quello è il problema, è sempre la quantità. I peperoni, la quantità, se è poco, ok. Se comincia ad essere tanto è un problema per la digestione, sempre. E il peperoncino ha interessanti qualità. Si usa problemi con catarro, tosse, bronchite, si può fare alcune cose. Ulcera gastrica, c'è chi l'ha usato addirittura per questo, lo dico extra perché è stato usato e ha aiutato anche a guarire da questo. Ma la cosa più interessante per me è non soltanto la vitamina C, antiossidante, eccetera, eccetera, aiuta a fluidificare il sangue naturalmente. Sì. Ok? Peperoncino. Quindi io ho fatto anche la tintura col peperoncino. A destra abbiamo questa la rapa nera o ravanello nero. Questa è favolosa. L'effetto principale, diciamo che è un antibiotico naturale, catarro, tosse, disinfetta l'intestino. E poi la cosa più interessante è forse quella che fluidifica la bile, stimola la produzione della bile e la fluidifica, quindi se ci sono calcoli biliari aiuta a mandarli avanti e così via. E ammazza grassi. Ammazza grassi, perché se più bile filtra, entra nel duodeno, i grassi vengono digeriti meglio e lavorati meglio. Ecco, questa è la rapa nera, c'è anche qua descritta dentro cosa si fa, anche che è molto interessante saperlo. Le piace col creme? No, non è il creme, il creme è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra pianta, questa è proprio una rapa, ok? Dentro è bianca, fuori è nera, quindi si usa il succo, grattugiata, eccetera eccetera. Oggi l'ho mangiata anche un pochettino. Adesso vediamo un'altra cosetta interessante. A casa mi faccio i crauti tutti gli anni, me li coltivo io stesso, li raccolgo, e poi il cavolo cappuccio, quello tipo invernale, si usa, no? Queste qui sono, io l'ho messo dentro perché sono queste rape dal collo rosa, sono bianche sotto e sopra rosa, si possono mangiare crude o cotte, i getti. Da qui vengono poi quelli che si chiamano le cime di rapa dopo, no? E si fanno in attuazione i crauti anche con questi, perché anche questi sono delle brassicacee con il cavo cappuccio, sono cavoli anche questi, però il cavolo migliore, ideale, è quello là sopra. E questo è il contenitore, si usa oggi una volta era di legno, adesso di argilla, e metto qui dentro e faccio i crauti. No, si usa quella fare lì come per tagliarli, insomma, e poi si mettono dentro con sale, si può aggiungere altre cose volendo, poi si lascia fermentare. Questa è una fermentazione lattica, è un cibo fermentato. Nord Europa, Siberia, per esempio, per capire, hanno fatto sempre fermentare il latte, perché siccome mangiavano tanto riuscivano a tollerare meglio il latte, no? Quando è fermentato. Yogurt lasciamolo perdere perché non è il tema di oggi, però meglio non esagerare. Poi cosa c'è? E in Africa faceva fermentare addirittura il miglio. Ah, il miglio. I cinesi, adesso ci sono dei funghi fermentati che usano i cinesi, si usano come anticancerogeno ancora oggi. E cosa fanno i crauti allora? Nell'ambiente qua tedesco questa verdura viene fatta fermentare, fermentazione lattica, acido lattico, ma non l'acido lattico della muscolatura quando faccio esercizio, un'altra formulazione chimica. E i crauti hanno quattro effetti interessanti. Uno è quello disintossicante, che è quello dei cavoli. Il secondo è basico, ci sembra acidulo quando lo mangiamo, però nel nostro corpo crea basicità. Terzo, molto più ricco, si concentra la vitamina C e altre vitamine e minerali, E poi viene il quarto punto, quello più interessante. Fermentazione lattica, acido lattico, quindi si può fare anche una cura per un periodo, ma non per tutto l'anno, un mese e mezzo, massimo due, crudo, come antipasto, una certa quantità, usarlo anche come buon anticancerogeno. Ok. Tutti quelli là, i cavoli sono... Sì. No, come... No, no, no, no, come crauti, non come cavolo. Come crauti, sì. Deve essere fermentato perché è l'acido lattico che ha quell'effetto. Sì, ma di quei cavoli in genere sono la triglia delle tortigliacce e anticancerogeni, in genere. Ma tutto? Quello, l'acido, tutto qui, l'acido. L'alimentazione naturale è tutta anticancerogena. Tutte le tutto, che ha detto fino adesso. Tutto anticancerogeno. Ognuno lo sa. Siccome le persone che hanno un tumore di solito mancia l'acido lattico in una certa formula chimica, glielo diamo al corpo di nuovo, no? In questa però maniera crudo, qua. Diciamo, è venuto fuori da là. Sì, sì, sì. Mangiare un pochettino come antipasto crudo. Sì, crudo. Un cucchiaio, due, tre, quattro. Ah, non lo so cosa succede, so che fa quell'effetto lì. No, dicevo, se si pianta alla fine. Come alla fine? Alla fine del pasto. No, meglio sempre prima. Questa è una regola standard. Perché ha a che fare con processi biochimici, sistema immunitario, eccetera. Anche per i bambini è meglio mangiare la verdura cruda prima del pasto? Sì, sempre. Evita la leucocitosi. Cioè c'è una reazione autoimmunitaria del corpo molto più bassa. Invece di cominciare col cotto è meglio cominciare col crudo, se viene tollerato, se viene tollerato. E poi si mangia di meno. Ma chiaro, quello viene dopo, oltre questo c'è questo. La cosa principale è quella che ho detto prima, poi viene anche quello. Sì, sì, sì, sì. Tutto funziona così. Adesso ho finito, c'è ancora uno dopo. Leggete questo, si legge? Tutto quello di cui il nostro essere ha bisogno manca e così elevare energia vitale e salute si può stabilire energeticamente con validi metodi. Ciò avviene nel momento in cui si diventa più sensibili e recettivi. Io ci ho provato e mi è riuscito. Ogni tanto controllo io stesso il mio corpo e cerco di dargli quello che gli serve. Ogni tanto è bene farlo. Ho trovato il mio sistema, insomma. Ecco. Tacco. Bene, questo è l'ultimo e poi ho concluso. Lì se qualcuno vuole vedere ho fatto delle tinture e mi faccio a casa, così si rende conto di qualcosa di più. Se qualcuno ne vuole una me lo deve dire. E qua ci sono i libri, per chi interessa. Quello che riguarda le piante sono tutte descritte qui dentro e altri valori che riguardano spiritualità eccetera in questo qua dentro, altre cose in quell'altro là dentro. Le tinture come se vengono usate? Oh, prima dei pasti o dopo dei pasti o durante i pasti o durante il giorno, dipende cos'è, diverse quantità, da poche gocce a più cucchiaini, sono tante le cose, ma in fin di conto è tutto molto semplice. Ecco, io ho raccontato tutto, se avete delle domande fate domande. Ma è natura, ci sì. Sono tante piante che non fanno bene, che sono invece sì. Molto simili a quelle che fate vedere o raccontate sì. Nei libri sì. Dove uno va magari a raccogliere può anche confondersi, bisogna cominciare da qualche parte. Il difficile è quello, ogni pianta buona ce n'è una cattiva che si sono sì, ma... cioè, allora vuol dire però c'è il profumo, se lei fa così se, qualcuno acquisterà questo libro oggi si renderà conto che non serve girare chissà dove a cercare, anche nel supermercato trovo le cose che vanno bene. Io ho fatto l'esempio solo del radicchio rosso, no? Già quella invece di usare la tuga brasiliana usa il radicchio rosso, un bel risotto radicchio rosso col vino rosso, oppure come antipasto del radicchio rosso o tante altre cose. Già questa è medicina per la quotidianità, bisogna imparare un po' a distinguere. Non è difficile, però bisogna informarsi, chiedere, sapere, fare, poi bisogna fare, perché se non si fa non succede niente, bisogna fare i fatti. Qualcuno giù può accendere la luce giù in fondo? Grazie. Oh, così? Io le prendo questo qui. Ci provi. Sì. Sarà molto pratico, esaustivo. 15 euro. Io lo prenderò. Io direi, vale la pena. Sì. Aspetta, ti vedo il resto. Devo cercare qua, devo averci. Se volete fare regalo a qualcuno, anche di questo per leggere è bellissimo. Viaggio. Là. Le dà due, sì, volentieri. Così? Grazie. Mi fa un favore, me li firma. Dica, me li firma solo, così. Sì, almeno sì. Uno perché faccio sì, bene. Sì, no, ti faccio un po' di spazio qua. Aspetta, faccio un po' di questa roba qua, se qualcuno vuole. Almeno vi fate un'idea proprio, che poi andate, potete andare nel pratico. Mi è piaciuto l'ortica che si può mettere dappertutto quando è seccata. Sì, sono cose semplici che uno... Aspetta, uno e un altro ancora, un attimino. Lì è proprio pratico, A tutti. Può, per piacere? Sì. Visto che... Va bene. 20, 30, no, 35, devo dare un tiro. Aspetta, 35. Allora. Lo facciamo così. Ok. Poi gli do dietro una cosa. Sì, infatti, volevo. Prego, prego. Quello vi renderete conto, non bisogna fare niente di difficile. Okay. Se qualcuno vuole informazioni si prende questa, può farsi sentire se vuole. E poi proverò quello della cipolla, dei capelli, succo di cipolla. Sì. C'è la possibilità. C'è la possibilità. Ah. C'è anche lì una, potrebbe essere l'origano, per esempio, potrebbe essere, però bisogna mettere a posto il fegato nell'altra maniera, così. Aspetta qua, se questi qua, se uno vuole leggersi, mi dirà il 6 euro. Ed è molto molto esaustiva la cosa. Aspetta, come dovevo fare? Questo qua lo volevo dare, intanto. No, mi lo date, ti sembra? Sì. A lei. No, che cavolo sto dicendo? No, già confuso. No, mi ricordo ancora di lei. Sì, esatto. E ci ha visto lì. Io prendo questo. Sì. Basta. Il resto. Pasta dovrebbe. Ma dovrebbe essere dentro forse nel libro. Sarebbe la... Questo qua. Questo. Per capire, entrare in un altro schema mentale. Alberto, devo solo per guardare. Devo chiamare per lunedì o vengo meglio che chiamo prima. Sì, dice che a quale ora potrebbe essere, non serve neanche la mattina o meglio pomeriggio, no. Per le 10, mi andrebbe bene, sì. Sì? Sì, sì. Okay. Se non andasse magari va bene, okay, facciamo così. Ecco. Sì. Sì. Cosa dicevo? Non so se non è quello che memoria sono diverse cose, non ho parlato di memoria. La cipolla, il cervello, circolazione sanguigna, cervello, eccetera. C'è domande per cosa? Qual è il costo del libro? 15. Andare. E come risponde per email o per email? Email per telefono stesso. Queste sono le regole del gioco, eh? Non ci scappa nessuno. Sì, sarebbe in grado anche un po' di cambiare sugli altri. Se vuole una volta, se vuole una volta fare qualcosa di più, può fare un test di radio, così l'ho fatto alla signora lì. Adesso dobbiamo vedere che tenersi. Radiestesia. E cos'è? E riguarda biotensore prima. Perché soltanto con questo è troppo poco. Bisogna rimettere in ordine il resto. E dove si fa? Con il telefono e lo dico. Questo quindi in base a quello poi per inquadrarla con una previsione della vita. Quindi in base a quello che poi uno prende la strada. Questa è solo una delle tante cose. L'importante è prendersela in mano la propria vita. E tante volte non è facile. Non è facile. Mi faccio sentire più di me. Buona giornata. Qui comincerà, se la lega anche lei, sì. Vedrà come quella è la direzione. Va bene. Io bene, grazie, stavo interessante. Qui messo le rape rosse, sì. No? Sì, alle volte sì, fanno tutto quanto anche quelle. Cambiare, no? Un po' di uno, O si riesce a stabilire cosa mi serve, oppure bisogna cambiare. Perché sempre la stessa cosa. No, infatti. La varietà alimentare ci vuole assolutamente. Se no non usciamo mai fuori. È così. No, Roberto, sto bene. Sto bene. Sì. Sì, le figlie maschietti maggiorenni che fanno quel che vogliono loro. Giustamente, sì. Io le lascio andare. Tranquillamente, senza. Anche una buona famiglia, dunque senz'altro una buona. Ha seminato qualcosa del genere. Io ti prendo tre libri. Sì, questo qua, questo devo lasciarlo qui perché è della. Lo volevo solo. No, guardi pure. Potrebbe essere interessante per lei o per fare un regalo a Natale? Ma io ho già preso due per cui. Sul serio? Sì, me l'avete firmati. Ah, giusto. Sì. Qualcosa per la memoria che io mi dimentico spesso, c'è che mi consiglio di erbe o qualcosa? Non mi va di raccontare favole, no? Potrei dire subito qualcosa, potrei dire il frassino, potrei dire cipolle e aglio combinarli assieme, oppure nel libro qua. Sì, sarebbe la tintura aglio cipolla mettere assieme, dà una mano anche quella. Ah, la tintura? Aglio cipolla. Ce l'ha la tintura? Non lo so, cosa ho preso dietro. Oppure perlomeno, pagina 11, farsi questa curetta qua. Questa qui. Vediamo, sentiamo allora. Allora, buona giornata e buon fine settimana. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci e arrivederci. Ci sentiamo per sì. Grazie, quindi bisogna per forza andare fino a casa o fare una cosa, no, per chiedere. Oppure se mi chiedi, si può chiedere anche per telefono, se si vuole chiedere. Se si vuole fare, se vuol fare, si vuol fare proprio. Allora facciamo una volta sola, vado io magari insieme. Sì. Andate insieme. E se no mi mandate la foto. No, 3 ore, aspettare. Ci vuole tempo finché ho fatto tutto. Io gli ho lasciato la foto. Perché prima sono un'altra cosa. Che buono. Almeno io mi è successo sta roba anche a me 32 anni fa. La mia foto e lasciare la sua foto. C'è una foto vecchia che è stata insieme ad altre foto, tenersela un giorno almeno in tasca, vicino al corpo. e dopo metterla in un foglio di alluminio, quello normale, cartuccina, coprirla una volta sola, mettere in una busta, e poi, se mi ricordo, stasera le mando un bel fogliettino da, da mi scrivo per due righe e la spedisci. Prima fai tutte queste cose le... sì. Io ce l'avevo dietro, ma la basta, quindi lei non ha bisogno della persona in casa. Se si parla, qui parliamo di energia, si parla di energia, energia dappertutto. Se questo non lo so, allora in una foto ce n'è di meno con me. Mi ha insegnato a fare così. Sì, e nella vita bisogna prima o poi decidersi che strada prendere, no? Sì. Mi è stato interessante quel che ho spiegato. Sì, sì, questi sono i dati di fatto, così si fa. Io volevo solo chiedere una cosa, io prendo sempre le mattine un po' di succo di limone. Arrivederci, non troppo tempo lungo. Arrivederci. E un po' di miele, non troppo lungo. No. Bisogna sospendere. È meglio, è meglio. Perché sono quasi male. No, quella, lasci perdere, che è meglio. Faccia quell'altra cosetta che ho detto io. Sì, va bene. È meglio. Allora. Da meno problemi. Sì. Tre libri firmati. Sì. Sì. Guarda, sono interessanti qua. Si può fare tutte cose semplici da farsi. Ma voi dovete fare anche un'altra cosa, un corso. Sì. Per fare le ricette. Quindi si fanno certe cose. Sì. Ecco. Quello dove? Da qualche parte, quella scuola alberghiera, Bozzano, così, quello sarebbe una bella cosa. Ma sai quante le persone sono? Sì, faremo prima o poi, che bello, sì, che bello, poi si gira dall'altra parte e fanno altre robe. Sì. Però una cosa così, come fate voi, che usate anche queste cose particolari, sì, che altri non usano? Sì. Non è una brutta cosa, è bellissimo. Ma lo so che è bellissimo. So che è bellissimo. Così potrebbe essere? Sì. Ok. Lo so che è bellissimo. Ecco, allora. Però l'essere umano tende sempre a trovare le traverse. Sì, sì, lo stesso. Sì. Che non sei quello della biblioteca, dico. No, non ce l'hanno in biblioteca. No, io non ne ho ancora in giro. È proprio, non c'è anche nel negozio? No. No, qui dei cappelli li ho portati, aspetta, li ho lasciati nel fondo e li ho presi lì. Ah sì, li ho scusati. Sì, a me la scusa. Scrivo qualcosa di più? Come metto? Le frasi belle che ha scritto sono dentro al libro, quello del minestrone che è un decotto fitoterapico, è vero? Io quello l'ho pensato, è bellissima quella frase. Nel biglietto di Natale miei alla mia famiglia, sì, proprio sì, quella frase, perché loro non piace il minestrone e non vogliono più. Ma è una realtà questa. Una volta c'è il riso, una volta il faro, una volta c'è l'orzo, che ne so io. E poi c'è dentro, una volta c'è il timo, una volta c'è il sedano, poi c'è la carota, poi c'è la cipolla, poi c'è l'aglio. Io faccio sotto. Ma è così. Sì, sì, questa sì, è la realtà, bisogna vedere da quel punto di vista lì. Forse l'ho scritto dentro, non mi ricordo più. No, se non fanno foto. Cos'è adesso quello? Novembre, sì. È proprio nuovo questo libro. Sì. Uh-huh. Qui è proprio terra qua, Terra. Con in mano, carota. C'ho la diarrea, c'ho la stitichezza, così è com'è. Succo di carota, passata di carota, infuso, cataplasma, decotto, per i bambini, per gli adulti. Per la bellezza. Succo polvo crudo di carota aiuta a mantenere buono la pelle del viso e del collo e combattere le rughe. Lozioni, maschere emollienti, eccetera. C'è tutto. È così semplice la vita. Sì. Questo l'ho letto? No, ma non lo presta lei. Comprarlo e leggerlo e poi rileggerlo. No, è vero, comunque. Quella della minestrone è qua dentro? Non sono sicuro. Potresti farci avere quella. Se non c'è dentro, che non mi ricordo più, basta mi mandi un'email e io mando lo scritto. Va bene, d'accordo. E anche le frasi erano bellissime. Ecco, sì. Fai così. Vabbè, qua basta solo il nome e cognome, perché tanto vanno. Io scrivo così, non so se la faccio dire così. Ho visto che hai dato quella fotocopia, me la fai avere per me magari? Sì, sì. L'ultimo stadio. Ci sono aggiunte altre cose. Questa è, vorrei riuscire a farci un libro di questo. Ti ricordi tu o... manda email così. Manda. Perché domani non siamo a casa. Ok, va bene, d'accordo. Questo è, qui sono dentro tutti i 7 punti che ho descritto lì. Però lei non c'era lì. A te se fai alle 5 meglio queste cose. Sì. Noi lavoriamo fino alle 4. Io lavoro in provincia, lavoro fino alle 4 e mezzo, 4 e quarto. Se prende questo, il mio. Adesso viene il periodo della no, quale, come si chiama? Prima di Natale, il periodo delle 4 settimane prima dell'avvento. E questo è per l'anima proprio. Per l'anima? Per capire come si impara a vivere coi piedi ben piantati per terra, quindi seguire le regole naturali, e poi come imparare a avere, ragionare e a comportarsi in modo adeguato. Quello che vale, quello che è meglio lasciare perdere. E alla fine ho messo anche le erbe qui dentro, perché bisogna capire questa cosa qua. Te immagini, bei posti. Mi piacerebbe venire un'altra volta a seguirlo dall'inizio. Quando è che non lo so, dipende un po'. Ma c'è nelle in biblioteca oppure in giro nelle associazioni? Dove sarà? Ah, lo sa ancora qualche però seguiva Berta. Sì, se avvisa lei che noi veniamo a sapere. Sì. Sono arrivata alle 5, ci ho perso un po'. Sì. Non ha preso neanche un libro. Ma sono arrivata troppo tardi, la prossima volta. No, prende, leggere e poi qui viene motivazione. Prima approfondire, poi lo il libro. Alberto ti saluto. Andiamo. Ciao. No, anche e c'è gennaio, così dov'è? C'è qualche forse appuntamento? Forse devo andare in 2 o 3 posti ancora. No, devo stabilire data e tutto il resto. Va bene, ben fatto. Ciao. Buona ringrazio. Fortuna. Anche a te, mi raccomando. Va bene, le tue bellissime figlie. Alla prossima allora, arrivederci. E come ti chiami? Giusi. Ciao. Ciao Alberto. Vi ho dato uno spunto adesso per fare meglio. Non dovete fare niente di complicato. Se sentite delle teorie strane in giro, lasciate perdere. Basta fare così. Ok, grazie. Ciao, Alberto, ciao. Ho visto che là. Ah, aspetta. Aspetta un momento. Poi un attimo solo. Nessuno ha accorto che ho dormito con tutti più. Indietro, non so. Sì. Ah, lo sta dicendo? Ah, sì. Bene. Solo che ha cambiato sistema, adesso voglio vedere se mi resta una memoria sul carrello, perché anche lì si compariva sempre. E poi magari anche con i pennelli. Pennelli hit, Mondadori. Allora. Per quello non si può anche scendere. Mi gira qui come. È proprio allora,